Radio 24 Reportage. Sudafrica, un paese a tempo di musica, di Marta Cagnola. A tempo di musica, guardando solo al futuro, il Sudafrica. La Rainbow Nation, la nazione arcobaleno, è ricca di colori, ma anche di sapori e suoni, e di tutta una nuova generazione di musicisti e musiciste pronti a raccogliere l'eredità dei grandi maestri, Miriam Makeba, Yuma Sakela, a raccontare il paese a tutto il mondo, come fa la grande star dell'Afro Soul sudafricano, Lira. We're very tolerant. We have the desire to live in peace and harmony. We're a very humble people. Siamo molto tolleranti. Vogliamo vivere in pace e in armonia. Siamo gente umile. A volte il mondo si perde in mille conflitti. Noi abbiamo vissuto brutti periodi per troppo tempo. Certo, siamo una democrazia giovanissima. Ci sono ancora un po' di tensioni tra le comunità. Ma io vedo che la gente desidera solamente superare il passato e costruire un futuro nuovo, soprattutto la mia generazione, i figli del Sudafrica del post-apartheid. Questo è lo spirito che mi accompagna ovunque io vada. Gli artisti che mi hanno preceduto, come Miriam Makeba e Yuma Sekela, nella loro musica raccontavano la lotta, perché era la loro realtà. Io ho visto un po' di apartheid quando ero piccola. Mi insegnavano, ad esempio, ad avere paura dei bianchi. E le cose che ti insegnano da bambina ti rimangono dentro. Poi all'improvviso è arrivata la libertà. E abbiamo imparato a non continuare a pensare al passato, ma a capire che l'unica cosa che abbiamo è il presente. E che ora possiamo dare una forma a quello che il Sudafrica diventerà in futuro. Mi piace perché questa è la libertà, questa è un'opportunità. Sento che con la mia musica posso portare avanti questo percorso e posso raccontare la nostra società nel mondo. Posso raccontare che siamo liberi e liberi di creare la vita che abbiamo sempre sognato. One beautiful day, and it was February 16. There was a young girl who went into labor. She gave birth to a beautiful girl. Oh no. Una scena, quella del Sudafrica musicale di oggi, ricchissima, sempre con gli occhi rivolti al domani, con un grande punto di approdo, il Cape Town Jazz Festival, un palco sognato dalle giovani artiste. Putuma ci è arrivata quest'anno. It's not every day that you get to see a South African artist performing at this big event. So yeah, I'm very Non è cosa da tutti i giorni vedere artisti sudafricani esibirsi in questi eventi grandiosi. Sono fortunata, è una benedizione per me essere qui oggi. Tante cose sono cambiate nella nostra musica. Gli artisti non cantano più canzoni che parlano di lotta. Adesso siamo un paese felice. Cantiamo di cose positive. Abbiamo superato la fase delle lotte. Ora siamo nel futuro e voglio cantare le cose belle che succedono in mezzo a noi. Good things are happening amongst us. Donne, ricchezza del Sudafrica e ricchezza della musica sudafricana. Sul palco del Cape Town Jazz Festival anche Zonke. I'm 32 years old. This is my first successful album in this country. Like I said, I feel like, oh my, I almost feel bad that I'm here. Ho 32 anni, questo è il mio primo album di successo in Sudafrica e mi sento quasi a disagio per essere già qui. Forse avrei dovuto arrivarci dopo 20 album. Non ho parole, davvero. Questo festival è straordinario. Vengo da Port Elizabeth, una piccola città. Vorrei che mio padre fosse qui, vorrei che ci fossero ancora i miei genitori. Tutto questo è importantissimo per me. It means so much to me, it really does. In questo senso saresti anche ambasciatrice della cultura e della musica sudafricana. You could be an ambassador of your culture and your music, of South African culture and music. Where have you been all my life? Yes, I think every young woman, especially in South Africa, in this genre, wants to, you know, take the steps that Miriam has taken, you know. Penso che ogni giovane donna, soprattutto nel mio stile di musica, vorrebbe seguire le orme di Miriam Makeba. Essere come lei è impossibile, si sa, c'è stata solo una Miriam Makeba. Ma vorremmo seguire il suo cammino. Tutte le donne che conosco parlano di Miriam Makeba come la first lady di qualsiasi cosa. Especially as a Xhosa woman, you know, she's from the Xhosa tribe. So I'm extra proud of her. Sono molto orgogliosa di lei, soprattutto perché era della tribù Xhosa. Sono molto fiera di questo perché mi dico, allora ce la posso fare anch'io. Posso seguire i passi di questa donna straordinaria. This amazing woman, yeah. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired. L'Europa invecchia, è stanca, è attanagliata dalla preoccupazione per la crisi. L'Africa ha voglia di musica e persino di comprare musica, per scoprire il nuovo, ma anche per recuperare il tempo perduto e rivivere solo il bello del passato. A Città del Capo c'è un negozio di dischi leggendario. Si chiama Mabu Vinyl e da lì è partita la riscoperta del folk singer americano Rodriguez, scomparso per anni nel nulla. La storia, insomma, del documentario premio Oscar Searching for Sugar Man. Da Mabu Vinyl i ragazzi vanno ancora a caccia di buona musica, racconta Chris. The general music scene has picked up quite a lot in the last, say, two decades, since things have become more open. La scena musicale in Sudafrica negli ultimi 20 anni ha avuto una bella accelerazione. La situazione è diventata più aperta e democratica anche in campo musicale. Qui si suona di tutto: rock, jazz, musica di stile più africana o dance o elettronica, ma anche generi più tipicamente sudafricani. I ragazzi in Europa non comprano quasi più musica. In South Africa they buy music, they still buy music. Yes, yeah, I know, we're doing very well in this store. Sì, andiamo molto bene in questo negozio e noi vendiamo solo dischi di seconda mano. Soprattutto il vinile è richiestissimo, ci tiene molto occupati. Il nostro negozio va bene e va avanti da 10 anni. La Rainbow Nation è ricca di colori, di contrasti, di realtà diverse. Ricchezza e povertà, voglia di riscatto, voglia di far rinascere, ad esempio, le township. Una definizione ampia che ingloba più realtà sociali ed economiche di quante dall'Europa possiamo immaginare. Ma anche nelle township il desiderio di rinascita del nuovo Sudafrica è a tempo di musica. Langa è una delle più antiche township di Città del Capo. In lingua Xhosa significa sole. Fu creata nel 1901 per confinare i neri durante un'epidemia di peste bubbonica. A Langa, Sheila, una signora senza età, ha trasformato la casa in cui vive da 60 anni in un ristorante, Le Lapa, per dare un'occasione ai ragazzi e alle ragazze della township, anche ai musicisti. We work towards that other people also benefit. Lavoriamo perché ne traggano beneficio anche gli altri. Quando abbiamo aperto il ristorante, abbiamo creato delle opportunità. Abbiamo 8 ragazze che lavorano in cucina, il che significa che mantengono le loro famiglie. Ci sono i ragazzi che suonano e intrattengono gli ospiti, e anche loro mantengono le loro famiglie. Ci sono i ragazzi che controllano i bus fuori, e anche loro portano a casa di che vivere. Abbiamo cibo, ma il cibo va insieme alla musica. La gente mangia e si muove, perché se la musica non ti fa muovere, allora è meglio che stai a casa. Because if music cannot move you, then that means you must stay at home. Il cibo accompagna la musica perché la musica accompagna la vita. I ritmi sono altri. Non abbiamo la vostra ansia dell'orologio, scherza Sheila, neanche nei saluti. Molo to one person. Molweni to more than one. And that's it. Ci insegna, in lingua Xhosa, molo, molweni, a tutte le ore. La musica è l'unico tempo di cui tener conto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.